Bella questa aria che ha lasciato la tempesta. Fugge una preghiera dal silenzio di una casa. Bella questa luce, viaggio tridimensionale. Ora che sai resta. Oh,